voi siete veramente simpatiche. Oh, grazie Laura, anche lei, a dirlo. No, ma lo so perché. Perché anche quando parlate di malattie o di denaro che si sta perdendo, voi ci date speranza. Mangerò sempre più blu. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Vita, vite e speranza e sogno. E anche noi oggi vogliamo parlare di speranza e ci rivolgiamo a chi ha ricevuto una diagnosi di tumore, per dire che i tumori non sono solo curabili, ma in molti casi da un tumore si guarisce, si può riacquistare la salute, tornare a vivere una vita normale, riacquisire un'aspettativa di vita esattamente identica a quelle delle persone che non hanno mai dovuto fare i conti con il cancro. La conferma arriva dall'ultimo rapporto AIRTUM, l'associazione italiana Registro Tumori, che evidenzia che sebbene il numero degli italiani con una diagnosi di tumore recente o lontana nel tempo continua a crescere, erano 2.600.000 nel 2010, saranno 3 milioni nel 2015, quindi un 20% in più nel corso dei 5 anni, di questi 3 milioni una persona su 4 può considerarsi già guarita, perché è tornata ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale, cioè di chi non ha mai avuto una diagnosi di tumore. Questo successo è reso possibile grazie ai miglioramenti diagnostici e terapeutici. Il rapporto, ve lo ricordo, è stato pubblicato sull'ultimo numero della rivista Epidemiologia e Prevenzione, organo ufficiale dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, ed è liberamente scaricabile dal sito www.registri-tumore.it. Allora, Nicoletta, è proprio un tema importante quello su cui apriremo la puntata. Sono certa che molti ascoltatori oggi apprezzeranno quantomeno anche il taglio dato al nostro approfondimento, perché su questo tema è sempre bene portare l'attenzione e la riflessione. Proprio qualche giorno fa, i nostri ascoltatori lo ricorderanno, abbiamo parlato anche delle ripercussioni di una malattia seria sulla sfera lavorativa di una persona. In quel caso, in particolar modo, abbiamo raccontato la storia di una donna libera, era professionista, colpita appunto dal tumore, con tutte le conseguenze che ha avuto nella gestione della sua attività professionale. Oggi, in un certo senso, nella pagina di denari continuiamo ad avere un'attenzione per il mondo di chi lavora in proprio, il mondo del commercio in particolare. Ci sono due notizie che ci hanno colpito, che commenteremo con i nostri ospiti. Da un lato c'è la giunta della regione Lombardia che ha approvato una delibera che prevede un rinnovamento totale delle prerogative dell'edicola. Potremmo vederle davvero trasformate dalla vendita di alimentari al servizio di infopoint turistico. Poi ci sono i distributori di carburanti, l'antitrust raccomanda a regioni e comuni di abbandonare qualsiasi tipo di limitazione di orario per gli impianti, e insomma potremmo vederli aperti e serviti a qualsiasi ora e non solo in autostrada. 800 24 00 24, vi chiediamo cosa ne pensate di questi cambiamenti, sia che voi siate commercianti in questi settori, sia dal punto di vista di semplice consumatori. Ci chiederemo e vi chiederemo se si tratta di cambiamenti utili alla vostra vita quotidiana. Oggi abbiamo in palio una coppia di biglietti per il Piano Solo Tour 2015 di Giovanni Allevi, quindi attenzione a chi risponderà oggi al domandone di denari, due biglietti per la data di Genova del 29 aprile. E riprendiamo il tema della prima parte di Cuore Denari. Ci sono momenti della vita che nessuno vorrebbe vivere, momenti in cui si comprende davvero il senso del limite, ci si scontra d'improvviso con il fatto che siamo mortali. Parlo di quando si riceve una diagnosi di tumore, uno tra gli eventi più stressanti che alcune persone purtroppo sono chiamate ad affrontare. La stessa parola cancro evoca emozioni negative che rimandano alla malignità, ad una condanna ingiusta e inesorabile. Ma negli ultimi tempi qualcosa è cambiato. I più recenti rapporti epidemiologici, sia nazionali che internazionali, mostrano che il numero dei pazienti lungo sopravviventi, ovvero quelle persone che sono sopravvissute per più di 5 anni ad una diagnosi diagnosi di tumore, è in continuo incremento ed è destinato a crescere nel tempo. Il numero di decessi causati dai tumori non aumenta, nonostante l'invecchiamento della popolazione, e questo ha creato una consistente quantità di persone che, sopravvissute ad un tumore, sono da considerarsi come guarite, avendo praticamente lo stesso rischio di ammalarsi nuovamente rispetto a chi non è mai passato attraverso questa esperienza. Allora io vi invito oggi a raccontare le vostre esperienze. Possono essere utili se avete superato questa sfida così difficile a chi magari in questi giorni ha ricevuto una diagnosi o vive accanto ad un familiare che sta lottando. Quindi conto molto sulla vostra solidarietà, sulle vostre storie, sui vostri racconti, ma anche avete la disposizione di porre le vostre domande a un grandissimo esperto, e abbiamo in linea con noi il piacere di avere il professor Armando Santoro, che è direttore dell'Humanitas Cancer Center e responsabile dell'oncologia ed ematologia dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che sarà naturalmente ben disposto e disponibile a rispondere a tutte le vostre domande. Professore, intanto grazie per essere con noi, grazie davvero. Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti. Professore, il concetto di male incurabile appartiene al passato e non dovrebbe neppure più essere usata questa espressione per definire il cancro. Il concetto sta rapidamente cambiando, seppure siano ancora tanti i pazienti che non ce la fanno e i trionfalismi debbano essere banditi. La buona notizia è che oggi avete a disposizione i mezzi, e quindi li abbiamo anche noi, per poter vincere la sfida con questa malattia. Molti di noi hanno amici, colleghi, parenti sopravvissuti o guariti dal loro cancro, o sono loro stessi guariti. Allora, intanto rinnovo l'invito a raccontarci la vostra esperienza, ma intanto, professor Santoro, che cosa ha reso possibile questo cambiamento? Ma direi che ciò che ha reso possibile questo cambiamento è un insieme di fattori, un insieme di miglioramenti che ci sono stati nella gestione dei pazienti oncologici. Questo va da una diagnosi sempre più precoce, che rappresenta sicuramente un elemento estremamente importante perché consente un approccio terapeutico meno invasivo. Pensiamo ad esempio alla chirurgia, sempre meno invasiva, quanto più piccolo è il momento in cui venga diagnosticato un tumore, ma c'è poi anche tutti i vantaggi di nuovi trattamenti che sono rappresentati in buona parte dai trattamenti tipo medico, le chemioterapie, l'ormonoterapia, ma anche tutti i nuovi farmaci che abbiamo a disposizione in questo momento, oltre a un miglioramento sempre maggiore di quelle che sono le attrezzature di radioterapia che ci consentono di irradiare sempre meglio, con migliori risultati e con minore tossicità. Di fatto credo che il concetto comunque di male incurabile, che è una parola che non dovrebbe essere adoperata, dovrebbe essere totalmente bandita, si stia comunque superando anche nel modo di comunicare in genere, la stessa stampa, televisione, anche perché è una realtà che tutti colgono il fatto che ci sono sempre più persone, uomini e donne, che sono definitivamente guarite di un tumore, che conducono una vita complessivamente normale, e quindi questa percezione della malattia per la quale non c'è niente da fare mi sembra che stia entrando, si è sempre più abbandonata nell'ambito della percezione dell'opinione pubblica. 800 24 00 24, vi ringrazio molto perché stanno arrivando già numerose testimonianze al nostro numero verde. Con Deborah abbiamo parlato a lungo, ci siamo confrontate, perché affrontare dei temi così delicati in un orario mattutino crea sempre, ti chiedi se qual è il modo giusto per farlo. Speriamo, ma sicuramente contiamo sul vostro aiuto e soprattutto sulla esperienza e la professionalità e la competenza del professor Santoro. Intanto abbiamo Massimiliano che ci chiama da Mantova. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Io volevo portare all'attenzione il mio caso. Io ho avuto un cognato che è morto di tumore al pancreas in 6 mesi, e qualche mese dopo io, attraverso un dolore, mi sono recato in un pronto soccorso e mi hanno dovuto asportare la milza di urgenza. E una volta analizzata la milza mi hanno diagnosticato un linfoma non Hodgkin's di alto grado. Sì. Ci ho messo 3 anni di cure con dei medici che sono meravigliosi, visto che si parla tanto di cattiva sanità, io sono un esempio di ottima sanità, di vicinanza comunque da parte dei medici, quindi molto umani, e in questo momento sono 2 anni che sono in remissione, faccio regolarmente la PECT ogni 6 mesi e per ora la mia vita è ricominciata come prima, forse meglio. Forse meglio. Ah. Massimiliano, io la ringrazio per questo bel messaggio che arriva naturalmente a tutti noi, ma in particolare agli ascoltatori che vivono, stanno vivendo questa esperienza, questa battaglia o stanno a fianco. Grazie Massimiliano. Professor Santoro, un tumore battuto, che è quello di come ci ha raccontato Massimiliano. Che cosa ha reso possibile questi successi? Beh, direi che Massimiliano ha raccontato quella che è la storia dell'oncologia, un tumore battuto e un tumore non battuto, perché ha esordito con la storia del pancreas. Del pancreas, sai che è chiaro che purtroppo il tumore del pancreas rappresenta ancora oggi uno di quei pochi tumori in cui in realtà i vantaggi terapeutici sono piuttosto limitati, anche a causa quasi sempre di una diagnosi tardiva e quindi tardiva non per colpa di nessuno, perché per le sue caratteristiche, per la posizione che ha nell'addome, per una tardività nel dare dei sintomi, quasi mai si arriva in una fase precoce di diagnosi. E quindi purtroppo i risultati, resta, ripeto, una delle poche patologie con risultati complessivamente molto deludenti. L'altra invece è la storia di una malattia fondamentalmente guaribile. Massimiliano dice per ora sto bene, ma io direi che Massimiliano ha delle eccellenti probabilità di stare sempre bene, almeno per questa patologia. La probabilità dopo 2 anni per un linfoma ad alto grado, a grandi cellule, di guarire definitivamente la porrei intorno al 95-98%, rappresenta uno di quegli esempi di patologie che oggi riusciamo a guarire nella stragrande maggioranza dei casi. Non è solamente questo il tumore che ormai negli ultimi tempi siete in grado di battere, di guarire, ma professor Santoro, io vorrei che lei ci aiutasse un po' a fare chiarezza, perché a capire la differenza tra sopravvivenza e guarigione. Cerco di spiegarlo, è un concetto che anche nei pazienti e nei familiari non sempre è così facilmente comprensibile, forse perché anche noi medici non riusciamo a spiegarlo in maniera adeguata. Vorrei cominciare segnalando che in Italia ci sono attualmente, l'aveva già accennato lei, oltre 2,5 milioni di pazienti che hanno avuto o hanno una storia di cancro, numero che va sempre aumentando grazie al fatto che ci sono sempre più pazienti che guariscono e vivono a lungo. In questi pazienti che vivono oltre 5 anni, noi abbiamo due tipologie di persone. Un gruppo di persone che in realtà continua a condurre una vita pressoché normale o quasi normale, ma che ha bisogno di tanto in tanto di riprendere dei trattamenti o ha bisogno di fare in maniera continuativa dei trattamenti. Sono cioè quei pazienti affetti da patologie che oggi riusciamo a controllare, riusciamo a cronicizzare per tanti anni con una qualità di vita accettabile, ma che non riusciamo a guarire in maniera definitiva. Ad esempio ci sono alcuni tipi di linfomi meno aggressivi, che sono invece malattie che non si riescono a guarire definitivamente e più facilmente recidivano. Una volta che un tumore alla mammella non è guarito e ha una recidiva, è difficile pensare a una guarigione definitiva, ma si tende a cronicizzare, e potrei fare diversi esempi di questo tipo. Il tumore diventa in alcuni casi una malattia cronica, come il diabete, come Sì, in realtà come il diabete, è evidente che in questa cronicità ci sta tutto, ci sta la possibilità di aver allungato la vita, portarla a 7-8 anni, in alcuni casi anche a 15 anni, però in genere per alcune di queste forme con la cronicità non è una cronicità a tempo indeterminato, sì. È una cronicità che in qualche modo purtroppo a un certo punto accorcia la prospettiva di vita, ecco, può portare alla fine. Comunque con risultati complessivamente, soprattutto se il tumore insorge in una persona adulta, anziana, risultati sicuramente positivi, soprattutto se guardati con quello che era la storia di 10 anni fa. Accanto a questo c'è un gruppo sempre maggiore di pazienti che invece ha avuto una diagnosi di tumore, viene curata con chirurgia e chemio, con radio e chemio, con quello che è il trattamento ottimale per quella determinata patologia, per quel determinato stadio di malattia, è finito questo trattamento che raramente supera i 6-8 mesi, quindi un arco relativamente breve, dopo questo ha finito, non ha più recidive, è guarito. supera i 5 anni senza recidiva, un paziente che supera i 5 anni senza recidiva ha una probabilità altissima, direi quasi indipendentemente dal tipo di tumore che aveva inizialmente, di essere definitivamente guarito e di non avere più rischi di ricaduta. E questo è un paziente che possiamo definire guarito. È vero che qualcuno riferirà, avevo un amico che, un'amica che dopo 14 anni, 15 anni, 12 anni ha avuto una ricaduta. Sì. Sicuramente questi casi ci sono, ma sono casi sporadici, casi che non modificano il concetto generale di guarigione, e soprattutto lo troviamo per alcuni tumori. Forse uno di quelli che maggiormente può avere qualche ricaduta tardiva, ma ripeto sempre il numero molto limitato, è il tumore della mammella. Poi i casi sembrano tanti, perché oggi in Italia ci sono ogni anno 40.000 nuovi casi di tumore alla mammella, basta una piccolissima percentuale di ricadute tardive per avere qualcuno che conosce che ha avuto, certo, una ricaduta tardiva, ma non è così se guardiamo i numeri nella loro complessità. Sempre per rimanere nella sfera femminile, professor Santoro, le faccio ascoltare, sono Deborah, qua la donna di Denari, Francesca da Firenze, che ci chiama per raccontarci la sua storia. Francesca, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno professore. Io ho quasi 39 anni e nell'anno 2001, quindi ne avevo 25, mi fu diagnosticato un tumore ovarico. Quindi fui tutto molto veloce, ho fatto l'iter che diceva prima il professore, in 6 mesi ho fatto tutto, 2 interventi e chemioterapia, e era un tumore infiltrante, e niente, sono qui a testimoniarlo dopo 10 anni, lì per lì fu una bella botta. Immagino. E poi subentra, beh, a 25 anni l'impossibilità di procreare. Sì, proprio in quella fase di vita che è tutta dedicata alla progettualità. Esatto, Francesca. Esatto. Quindi ti crolla un po' il mondo addosso, anche se poi quella cosa lì passa in seconda battuta quando ti dicono che comunque non c'è certezza per la tua vita. Quindi a quel punto un po', sì, certo, pensi alla vita piuttosto che a procreare. Tutto è andato per il verso giusto, seppur con difficoltà, chemioterapia, perdita di capelli, quindi comunque ci sono degli aspetti anche psicologici pesanti. Poi cosa è successo? È successo che dopo diventi una giovane signora in menopausa, con tutto ciò che ne discende, terapia sostitutiva, vampate, insomma, però l'ho sempre affrontato col sorriso sulle labbra. Ed oggi, diciamo, sono stata fortunata perché comunque un figlio come ho adesso, adottato in Africa 3 anni e mezzo fa, sì, ne stiamo aspettando di adottarne un'altra. E insomma, così felice non so se sarei potuta essere. Grazie Francesca. Grazie a voi e spero di aver dato speranza e sorriso a tante persone. Lo sta facendo e l'ha fatto. Cuore e denari. Il guaio. Datemi un benzinaio. Datemi un benzinaio. Datemi un benzinaio. Può capitare, sì, di essere alla ricerca di un benzinaio nei momenti più impensati, magari di notte, in città, in autostrada, o magari in aperta campagna, di non trovarlo sempre aperto e magari di trovarlo aperto ma con qualche guasto al self-service. È capitato anche a voi? Raccontateci di quella volta in cui trovare un benzinaio aperto è stato per voi di vitale importanza. Siete partiti con la tanichetta perché la macchina a secco l'avete dovuto abbandonare da qualche parte. 800 24 00 24 per prenotare i vostri interventi sul tema che affronteremo a partire dalle 11.45. In realtà di benzina parleremo dopo le 12 e parleremo di una raccomandazione dell'antitrust che ricorda regioni e comuni che non possono essere posti limiti alle aperture dei distributori di carburante. Prima però, tra una decina di minuti circa, dedicheremo un piccolo approfondimento anche alle edicole, perché in Lombardia per questi esercizi sono in arrivo ampi margini di liberalizzazione. Non dimenticate che oggi all'interno della pagina di Denari metteremo anche in palio una coppia di biglietti per il Piano Solo Tour 2015 di Giovanni Allevi. Vi aspetta un domandone, al primo che risponderà esattamente arriveranno 2 biglietti per la data di Genova del 29 aprile. Si chiama chiamano survivor, lungo sopravviventi. Sono le persone che hanno superato da oltre 5 anni una diagnosi di cancro e che si sottopongono a controlli sempre meno frequenti nel tempo e che attendono, con mille cautele, di potersi definire guarite. Gli studi su questo gruppo di persone non sono molti, perché la lungo sopravvivenza è una realtà recente, ma è una realtà che richiede un'attenzione mirata e dedicata, perché chi ha affrontato il cancro e ha vinto la battaglia ha delle necessità peculiari che devono essere individuate, comprese, soddisfatte per garantire a queste persone il ritorno a una normalità che è fatta di reinserimento sul lavoro, in famiglia, nella coppia, nella società, il desiderio di vedere realizzati i propri progetti, di avere un figlio. Anche questa è una nuova sfida che naturalmente i medici e operatori si troveranno ad affrontare. Noi ne stiamo parlando oggi con il professor Armando Santoro, direttore dell'Humanitas Cancer Center e responsabile dell'oncologia ed ematologia dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, in questa puntata che vuole sottolineare il cambiamento che c'è stato nell'oncologia in questi anni, dare speranza ma anche aggiornare su quelle che sono le ultime novità nel campo della diagnosi e del trattamento. Professor Santoro, siete pronti per affrontare questa nuova sfida? Direi di sì. Io vorrei riprendere, proprio per affrontare questo argomento, la signora, la ascoltatrice che era intervenuta prima della pausa, perché sì, rappresenta un esempio classico per rispondere alla sua domanda. Donna che ha 25 anni, ha una diagnosi di tumore, purtroppo, essendo alle ovaie, questo le comporta delle problematiche con l'impossibilità di avere figli suoi, ma che guarisce della sua malattia, rielabora una sua vita che sembra abbastanza positiva, arriva a dire quasi: senza questa esperienza non so se la mia vita sarebbe stata così bella come è stata. E credo che qui ci sia tutto il percorso della storia di un guarito di una qualunque forma tumorale, e forse anche una grande motivazione per noi medici oncologi di impegnarci al massimo per ottenere migliori risultati, avendo anche delle soddisfazioni di questo tipo, che sono soddisfazioni chiaramente che gratificano e che danno una carica anche dalla parte del medico. Noi siamo pronti ad affrontare il problema dei guariti? Sì, dobbiamo essere pronti da due punti di vista. Uno, cominciare a prevenire eventuali effetti collaterali che si possono manifestare. Ad esempio, la sterilità è una complicanza abbastanza frequente di molti trattamenti chemioterapici o radioterapici, ma oggi in un paziente che ha una prospettiva di guarigione, sia esso uomo o donna, non è un problema tendere a preservare gli ovociti, gli spermatozoi, consentire, cioè passato un tot lasso di tempo, i 2-3 anni, di poter portare avanti un'eventuale gravidanza se quell'ex paziente ha desiderio appunto di procreare, di avere dei figli. Quindi c'è una specie di gestione del lungo sopravvivenza che deve precedere quasi l'inizio della terapia. Poi c'è la gestione di questi pazienti nel momento in cui sono guariti, hanno superato i 4-5 anni. Superare questo periodo vuol dire probabilmente essere definitivamente guarito del tumore iniziale, ma è innegabile che ci possono essere una serie di altri problemi, alcuni anche favoriti dai trattamenti che sono stati somministrati. Come ad esempio? Possiamo avere difficoltà nell'inserimento del mondo lavorativo, perché comunque può lasciare uno strascico, non tutti reagiscono in maniera ottimale, abbiamo dei pazienti che comunque si portano questa paura del tumore anche negli anni successivi, anche a distanza di tanto tempo. Perché a volte è più facile toglierlo dal corpo che dalla mente. Esattamente. Poi abbiamo anche alcuni casi, soprattutto con vecchie attrezzature radioterapiche, magari un maggior rischio di poter sviluppare delle problematiche di tipo cardiologico, c'è il problema della sterilità che abbiamo affrontato. Vediamo più tumori diversi e vorrei spiegare però questo. Una volta noi non vedevamo in un paziente con un tumore lo sviluppo di un tumore completamente diverso, ora capita di vederne due, in alcuni casi anche tre, ma non è che questi siano dei soggetti particolarmente soggetti a sviluppare tumori. Ovviamente guarendo questa gente resta a rischio di poter sviluppare ulteriori tumori. L'esempio più classico è il tumore della prostata. tumore della prostata è un tumore delle persone anziane. Se noi guariamo una persona di 40-50 anni, questa è una sua vita normale, arriverà a 70-75-80 anni, avrà un rischio di sviluppare quel tumore, gli potrà venire quel tumore. Quindi vediamo comunque pazienti che nell'arco della loro vita possono avere più patologie. Possiamo avere problemi di tipo magari un po' di insufficienza respiratoria, perché alcuni trattamenti riducono la capacità respiratoria. Quindi ci sono una serie di effetti a distanza, di manifestazioni a distanza che vanno presi in considerazione, e noi medici dobbiamo fare uno sforzo, noi oncologi, per capire che dopo un tot lasso di tempo, quando il paziente si può definire guarito, forse più che orientarci a fare quegli esami che servono a identificare eventuali recidive della malattia, dobbiamo pensare a fare degli esami che possano magari consentire di arrivare a una diagnosi precoce di complicanze dovute un po' agli anni che passano, un po' alle terapie che questi pazienti hanno somministrato nel momento della loro diagnosi iniziale. Professore, abbiamo tempo per una telefonata degli ascoltatori, vi invito a scriverci perché se ci avete chiamato in tanti, il tempo poi è a nostra disposizione nella prima parte della trasmissione sta terminando. Andiamo a raccontare la storia di Sandro che ci chiama da Reggio Emilia. Mi fanno un cenno dalla regia, è caduto, ci dispiace, che ci raccontava professor Santoro che dopo 5 anni dal tumore è stato dimesso e dopo 3 mesi ha avuto una recidiva, perché non possiamo dimenticare che abbiamo sottolineato gli aspetti positivi, passi avanti, ma rimangono comunque alto il numero delle persone che purtroppo si trova a affrontare nuovamente il tumore. Ma questo purtroppo è una realtà, consideriamo sempre quella che è l'incidenza ogni anno di tumori, 360.000 nuovi casi, quindi un numero estremamente elevato. Se oggi la quota di pazienti che possiamo considerare guariti in un paese occidentale, in un paese come l'Italia, grazie anche a screening e prevenzione, si aggirano intorno al 60-70%, ci si rende comunque conto che ci sono 90-100.000 persone l'anno che possono morire di tumore, che non guariscono del loro tumore o perché sin dall'inizio non abbiamo delle armi o perché magari possono avere delle recidive. Questa è una realtà inconfutabile, purtroppo, su cui si sta cercando in tutti i modi, in tutto il mondo, di porre rimedio, cercando di ottenere risultati sempre migliori. Va però anche ricordata a questo signore che ha avuto una ricaduta dopo il 5° anno, a 5 anni e 3 mesi, che la ricaduta non vuol dire che per lui non ci sia niente da fare, rientrerà in quel gruppo di pazienti di cui parlavamo inizialmente, i cosiddetti pazienti cronici, forse non riuscirà a liberarsi definitivamente dal suo tumore, ma quasi certamente avrà delle grosse probabilità, possibilità di poter condurre ancora una vita lunga, nel senso di una cronicizzazione della sua malattia. E poi, se consideriamo che in questo ultimo decennio abbiamo avuto veramente una rivoluzione dal punto di vista terapeutico, le terapie molecolari, i farmaci bersaglio, ora il grande filone dell'immunoterapia che sta aprendo orizzonti terapeutici veramente di estremo interesse in tantissime patologie. Professore, bisogna che lei torni a Cuore Denari, perché affronteremo sia il capitolo della prevenzione, molti ascoltatori ancora ci chiedono se c'è uno stile di vita, se ci sono i controlli, eccetera, e soprattutto come stanno cambiando le terapie. Professor Santoro, grazie davvero per averci aiutato ad affrontare questo tema così delicato, cui tenevamo però in modo particolare, per dare speranze, per fare il punto un po' della situazione. Professor Santoro, buon lavoro. Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Cuore e denari. Angeli della notizia calda, messaggeri della teleradio foto, menestrelli dell'ultimo scandalo o dell'ultimo avvenimento, gli strilloni sono eroi dell'ugola. Non meno che bello, anche se ne sono cambiate di cose dai tempi in cui le notizie arrivavano dagli strilloni, dalle edicole. Noi non abbiamo, anche se ci abbiamo qualche anno sulle spalle, gli strilloni io non me li ricordo. Non li abbiamo visti né sentiti. Oggi tutto il mondo dell'informazione è cambiato, ma l'edicola resta un punto di riferimento per molti consumatori, resta un posto di lavoro per i tanti operatori in questo settore, eppure per adeguarsi ai tempi qualcosa può cambiare anche in edicola. Allora, intanto voi raccontateci se la frequentate. Io spero che il mio edicolante non cambi mai, perché è gentile, carino, anche mio sempre carino, sorridente. Lo frequentate voi il vostro? Vi è comodo? Per quale motivo? C'è un rapporto di fiducia? Un consiglio? 800 24 00 24 per le vostre telefonate su questo tema che affronteremo adesso velocemente in questa prima parte di Cuore e Denari, poi cambieremo argomento. Ma nei giorni scorsi abbiamo parlato di negozi alimentari, approfondendo i temi dello spreco, le iniziative per combatterlo. Oggi cambiamo settori perché ci hanno incuriosito due notizie che vorremmo approfondire per testare anche che grado di interesse hanno tra di voi. Una è quella relativa ai benzinai, che vi ho già anticipato, su cui torneremo alle 12.10. L'altra riguarda solo la Lombardia, ma apre certamente una discussione a livello nazionale. Anche in funzione di Expo 2015, le edicole potranno vendere prodotti diversi da quelli editoriali. I prodotti alimentari, per esempio, che però non necessitano di particolari accortezze per la conservazione, e servizi legati alle informazioni turistiche. In realtà questi centri li vediamo già in Stazione Centrale a Milano, esistono già strutture di questo tipo. Il tema è capire come si adegueranno le altre su tutto il territorio e soprattutto se vorranno farlo. A voi consumatori sembra utile questo cambiamento? Noi ne parliamo con Carlo Monguzzi, vicepresidente di SNAG, area nord-ovest, è il sindacato edicolanti. Buongiorno Monguzzi, aderente a Confcommercio, giusto? Buongiorno a lei, sì, aderente a Confcommercio. Buongiorno a lei, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Buona giornata intanto. Buongiorno. Peraltro oggi tutti i sindacati del settore hanno una grande manifestazione a Roma, esattamente in questo minuto. Le abbiamo tirato fuori Monguzzi, momento, esatto, sì, sì, sì. Fuori a forza da questo evento, esattamente come ci è successo con Martino Landi degli esercenti, appunto, dei distributori dei carburanti. Poi ne parleremo. Monguzzi, ci racconta qual è la situazione che vive la vostra categoria in questo momento? Non possiamo negare di trovarci in una crisi dell'editoria che accusate anche voi. Sì, una crisi dell'editoria particolare che noi accusiamo, giustamente come dice lei, e che sta facendo anche cambiare tantissimo il nostro lavoro, le nostre attività, l'affluenza dei clienti e tante piccole cose. Abbiamo un calo vistoso della vendita sia di quotidiani che di periodici, e giustamente come dicevate voi, in questo momento il fatto che in Regione Lombardia o la Regione Lombardia si sia allineata a altre regioni italiane per l'ampliamento del commercio nell'ambito delle edicole, questo non ci può fare che in questo momento molto piacere, ecco. Quindi c'è stato una sorta di adeguamento, diciamo che la Lombardia adesso, senza nulla togliere a questa iniziativa, non si è inventata nulla di nuovo, già altrove questa apertura, questa sorta di liberalizzazione, se possiamo definirla così, c'è già stata. Ci spiega nel concreto che cosa succederà? Perché io facevo l'esempio dei servizi che troviamo in Stazione Centrale a Milano, dove ci sono già edicole che vendono degli snack, delle bevande e delle guide turistiche, naturalmente, della città. Diciamo che teoricamente ora tutte le edicole sul territorio avranno l'opportunità di fare questo cambiamento, se lo vorranno. Sì. Tutte le edicole sul territorio di Regione Lombardia, in questo momento stiamo parlando di Regione Lombardia, potranno allinearsi a quanto l'assessore Parolini, e ci tengo a parlare dell'assessore perché l'assessore è stato estremamente determinato e in brevissimo tempo ha portato avanti questo progetto che noi seguivamo ormai da anni e che siamo contentissimi. E lì, comunque, le rivendite potranno in questo momento, oltre che i pastigliaggi, perché noi c'era un DCR Lombardia che già permetteva una piccola qualche cosa di nuovo, che era la vendita dei pastigliaggi, noi avremo l'opportunità anche di ampliare la vendita di prodotti alimentari verso le bevande e alimenti confezionati che prima cosa non necessitano di particolari trattamenti di conservazione e poi nello stesso tempo non siano manipolabili, cioè chiusi. Avremo l'opportunità anche e anche altri prodotti del settore non alimentare, questo è chiarissimo, purché però questo l'assessore ci teneva a farlo presente e anche noi ci teniamo comunque a far presente questa cosa, giustamente come diceva anche lei sul fattore delle edicole, importante avere le edicole che siano ancora le edicole di una volta, che possono comunque approcciare il cliente come sempre, rimanga comunque prevalente la vendita di quotidiani e periodici in questo ambito di allargamento commerciale. Pertanto dicevamo vendita di prodotti alimentari, info point turistici che è molto importante, tutti quei servizi inerenti all'informazione turistica oppure a qualunque tipo di manifestazione o anche a rapporti con le amministrazioni comunali. Ecco, questo secondo me potrebbe essere uno strumento molto attrattivo anche per i nostri punti vendita e potrebbe essere anche un ottimo il momento giusto per diventare anche qualche cosa di pubblica funzionalità, ecco, io credo sia questo. È chiaro che la libertà di informazione è assolutamente importante, la parità di trattamento, poi c'è l'opportunità, giustamente come diceva anche l'assessore in alcune interviste, di poter comunque fare in modo che ci siano delle aperture un attimino più come possiamo dire, più programmate, rese migliori anche sotto l'aspetto comunque, non so, zone particolarmente vincolate a qualche cosa dove noi possiamo comunque far nascere delle edicole, dei punti di informazione. Ecco, per noi è importante comunque che il punto vendita e l'edicola sia e rimanga comunque questa sentinella sul territorio. La ecco, sentinella sul territorio, il momento ci piace. Vuole raccontarci qualche cosa Giovanna dalla provincia di Verona sul fatto che appunto ha già visto esperienze di questo tipo in altre zone non italiane. Giovanna, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono una milanese emigrata nella provincia di Verona da una ventina d'anni e andavo spesso in Svizzera e in Svizzera le edicole vendono di tutto, giornali, gadgets, roba da mangiare, da bere, tutto. E devo dire che anche qui in provincia di Verona le edicole in genere sono dei negozi. Perché non vendono soltanto i giornali. Ma lei cosa compra andando a comprare i giornali? Ce lo dice dopo? Compra il giornale dove ci sono scritti i programmi di Radio 24, vero Giovanna? E noi verremo a trovarla a Verona. Grazie, allora grande fermento per il mondo delle edicole. Qua oggi parliamo naturalmente della Lombardia in vista di Expo, altrove queste esperienze ci sono già, ma insomma sono tutte novità sulle quali ci piace ogni tanto accendere qualche riflettore sul mondo che sta cambiando nel commercio, nel mondo del consumo, quindi niente di particolarmente dirompente, però insomma monitoriamo tutte queste iniziative. Cuore e denari. Non abbiamo un litro di benzina in palio, qualcos'altro, ne parleremo tra poco. Stop ai vincoli di orario per gli impianti di distribuzione di carburante. Tutti i distributori, quindi non solo quelli autostradali. E non solo con il self-service, perché solo con la possibilità di offrire 24 ore su 24, sia i servizi tradizionali, sia tutte le attività commerciali che stanno lentamente popolando impianti, la nostra rete, nostra rete potrà diventare europea, più economica, più efficiente, e solo così il prezzo della pompa potrà davvero diventare più competitivo con il resto d'Europa. Non sono parole mie, sia chiaro, infatti mi sono anche incespicata rileggendole, ma di Giovanni Pitruzzella, il presidente dell'Antitrust, l'autorità garante del mercato, che ha lanciato un monito a regioni e comuni. In sostanza ha detto: i distributori di benzina devono poter stare aperti con personale in servizio a qualsiasi ora. Allora, subito intanto la domanda agli ascoltatori e la risposta, speriamo, all'800 24 0024 o al 349 238 6666. Cosa ne pensate? Come consumatori cambierebbe qualcosa per voi o vi bastano già i servizi di self-service? Se siete addetti ai lavori, come vedete questo monito dell'antitrust? Se ne sentiva davvero il bisogno? Questa liberalizzazione totale degli orari, cosa potrà succedere ai prezzi dei carburanti? Scenderanno o saliranno? Tutte domande alle quali è ormai abituato da giorni a dare una risposta Martino Landi, presidente della FAIB Confesercenti, uno dei sindacati degli distributori. Buongiorno Landi e bentornato. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, per una volta intanto non ci troviamo a parlare, almeno non solo, di prezzo della benzina alla pompa, anche se vedremo che il tema di oggi alla fine c'entra anche con quello. Toccheremo anche quello. Noi un po' di carburante lo vogliamo mettere nelle auto dei nostri ascoltatori per mandarli a Genova. Vi chiederete perché? Perché? Perché c'è il concerto di Giovanni Allevi il 29 di aprile, 2 biglietti in palio per il primo ascoltatore che risponderà esattamente ad una piccola e semplice domanda. Semplicissima, perché ce li vogliamo mandare. Ecco, non solo perché ho letto. 800 24 00 24, questo è il numero che dovete comporre per rispondere e ricevere a casa la coppia di biglietti. Attente bene, Allora, sapete che c'è una grossa polemica ormai storica, consolidata, strutturale, direi, in Italia sul fatto che se il prezzo del petrolio scende, quello della benzina non scende altrettanto. Il motivo sono le tasse, le accise sulla benzina, ma anche l'IVA. Allora diteci se sapreste indicarci in che misura percentuale la tassazione complessiva sui carburanti incide sul costo finale. Insomma, su quello che paghiamo un litro di benzina, quale percentuale paghiamo di tasse? Vi do alcuni range. Meno del 30%, fra il 30 e il 50% o più del 60%. Se poi sapete individuare anche le percentuali esatte, anche l'Andi potrà confermarcelo e vedremo appunto se premiarvi anche con qualche libro della nostra biblioteca. Iniziate a prenotarvi per tutte queste risposte all'800 24 00 24, ma andrei subito con l'Andi sulla notizia dalla quale siamo partiti. I distributori possono stare già aperti 24 ore su 24, almeno capita in molte zone d'Italia, certamente sulla rete autostradale. Allora, cosa chiede precisamente l'Andi? Partiamo proprio con un'operazione verità e chiarezza, l'antitrust, perché fa riferimento ad un provvedimento ben preciso del 2012. Ci aiuta a capire qualcosa in più? Ma guardi, secondo me antitrust ha un po' le idee confuse, perché in questo comunicato che ha emanato, dove chiede alle regioni e ai comuni di garantire le aperture dei distributori senza limitazioni di orari 24 ore su 24, mi sembra che sia una richiesta fuori luogo. Oggi tutti i distributori di benzina, e in Italia ce ne sono oltre 24.000, per legge devono garantire l'erogazione di tutti i carburanti per 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, perché c'è un obbligo che è entrato in vigore nel fine 2012, dove tutti i distributori devono essere dotati di apparecchiature self-service operanti 24 ore su 24. Quindi la richiesta dell'antitrust secondo me è una richiesta assolutamente fuori luogo. Certo, l'antitrust vuole raggiungere un altro obiettivo, secondo me, e è quello di dire non ci deve essere limitazione di orario, ma oltre, siccome negli impianti di distribuzione carburanti, oltre vendere la benzina, si fanno anche altri servizi, quindi vuole che questi servizi vengano garantiti ai consumatori 24 ore al giorno per 360. Almeno quindi io nella sostanza così, la richiesta in questo modo, in questo modo, altrimenti l'antitrust non conosce le norme. Le normative. Se mi si accende in sostanza lo spioncino dell'olio del motore che manca alle 3 di notte mentre torno a casa dalla cena che ho fatto con Nicoletta, fino alle 3 del mattino non abbiamo mai fatto. Sostanzialmente Pitruzzella dice il benzinaio dovrebbe essere nella condizione di garantire anche il rifornimento dell'olio appunto al motore. Banalizzo molto l'Andi per farlo capire ai nostri ascoltatori. Mi chiedo, è già comunque questo servizio nella facoltà di un distributore, di un gestore di un impianto, se lo volesse fare, o comunque ha delle limitazioni a farlo? Se per esempio tutti i distributori benzinai attorno alla zona dove abito io a Milano volessero aprire secondo questi criteri, potrebbero già farlo? Guardi, allora, una cosa è gestire un impianto complesso dove ci sono attività collaterali, una cosa è gestire un impianto piccolo, un impianto dove le attività collaterali non sono presenti. Allora io dico che nel rispetto di alcune fasce orarie è facoltà del gestore ampliare l'orario di lavoro e quindi ampliare quel servizio che quel gestore può dare ai propri clienti a seconda di varie modalità. Certamente c'è un rispetto anche di un turno di riposo, c'è il rispetto come dire, di in quale area è ubicato l'impianto. Oggi ci sono le norme che prevedono anche una deroga sulla turnazione, sui servizi, a seconda che un impianto si trovi, come dire, su una viabilità prettamente turistica, in un'area, in un comune turistico, che in deroga a certi orari e a certe norme comunali può anche fare orari particolarmente più gravosi. Quindi c'è una grande flessibilità in questo senso. Ma anche una disciplina territoriale da non... Ma è anche legata al territorio, legata alle varie situazioni che si possono, alle esigenze dei consumatori. Lei deve sapere che un impianto di benzina, il gestore su questo deve stare attento a quelle che sono le esigenze dei propri clienti. Certamente se ha un'esigenza di dover stare aperto perché la sera è in un'area dove alle 10 di sera c'è più movimento, perché in quell'area magari ci sono iniziative che coinvolgono più traffico in quel periodo, ha la possibilità, in deroga a certe norme, di poter estendere l'orario, il proprio orario. Certo. Però pretendere poi che questi servizi devono essere mantenuti per 24 ore al giorno, mi sembra questa sia una vera utopia. Allora, tutto è fattibile, però chiaramente poi ne va, chi garantisce un servizio deve avere anche una giusta remunerazione, e io non credo che, voglio dire, stare aperti 24 ore al giorno ci sia quel ritorno economico che garantisce, infatti, come dire, il compenso che devo dare a chi mi fa il servizio. No, ma poi veramente ci piacerebbe in strada, e quindi poi poco, certo, sicuramente ne va a scapito del prezzo finale. No, poi Landi, guardi, anche se non ho assolutamente padronanza di questo settore economico, quello che ci piacerebbe capire è come immagina l'antitrust un effetto positivo sui prezzi praticati alla pompa, perché poi stiamo sempre lì ad andare a parare. Detto questo, sentirei Michele da Bari, che salutiamo all'800 24 00 24. Ribadisco, grazie Michele, adesso la faccio intervenire, ribadisco la regola del quiz. Mi state scrivendo in tanti al 349 238 6666, ci state scrivendo alla mail, sono irricevibili purtroppo. Dovete chiamare l'800 24 00 24. Poi se volete continuare a scriverci per altre cose, noi leggiamo tutto volentieri, e infatti vedo tanti vostri commenti anche su questo argomento. Bellissimo fare benzina 24 ore su 24, sarebbe meraviglioso che anche gli uffici comunali statali facessero la stessa cosa. Andrea ce lo scrive da Padova, quindi un commentino un po' piccato. Michele, benvenuto. Sì, buongiorno. Aspetta, in merito, io sono un rappresentante, quindi in macchina ci sto spesso, la benzina per me è un elemento essenziale del mio lavoro. La cosa che volevo specificare è che, a parte il self-service, che come diceva giustamente il signore che parlava prima, è una cosa che esiste da tutte le parti e quindi è facile utilizzarlo, ma inoltre da noi, io sto nel sud Italia, da noi fare o lasciare i distributori di benzina aperti 24 su 24 vorrebbe dire semplicemente sfruttare del personale che già ora al momento, in molti casi purtroppo, anche se questo ufficialmente non lo si può dire, viene sottopagato. In secondo luogo, eliminare tutto quel personale, diciamo tra virgolette, a nero, nel senso che nella realtà sono extracomunitari, spesso senegalesi o altro, che ti aiutano diciamo nel rifornimento. Esatto, e poi ti chiedono anche esatto. E che quindi faranno poi un'altra cosa che non voglio manco pensare cosa potrà essere, se non potranno fare più quel tipo di attività. Ed inoltre tutto questo servirebbe semplicemente a poter fare rifornimento di notte, quando chi gira di notte al 90% è sicuramente fornito di un mezzo per poterlo fare a distributore automatico. Ma inoltre, pensare di avere un distributore aperto in zone tipo, non lo so, per dirle, Bitonto o Palombaio o che ne so io, dove ci sono delle strade statali dove normalmente i furti avvengono all'ordine del giorno, vuol dire sottoporre certo, a dei rischi che c'è, diciamo, tutta la questione della sicurezza. Michele, certo. Grazie, sottopongo tutte le sue osservazioni a Martino Landi. Serena su Twitter ci scrive: a me basta il self-service, un benzinaio da solo non può essere presente 24 ore su 24 se non può permettersi dipendenti. Come fa Carlo? Ci scrive: la soluzione sarebbe di avere un rubinetto per la benzina in casa con un contatore che misura i consumi. Vabbè, comunque detto questo, Carlo, a parte l'aspetto folcloristico di questo messaggio, un tema scatenante il dibattito, questo ci fa piacere. Allora, non lo so quale potrebbe essere la soluzione giusta sul territorio, averne due aperti in un determinato arco territoriale a turno, non lo so, le zone sono diverse, le città sono diverse. Martino Landi, intanto il commento alle osservazioni del nostro ascoltatore di Bari. Ma guardi, questa turnazione già esiste, perché in tutte le città italiane, in tutti i comuni, in tutte le province, in tutte le regioni c'è una turnazione che garantisce gli utenti con un minimo servizio. Ci sono i turni festivi, i turni del sabato, i turni domenicali, quindi questo già esiste. Certamente pretendere che tutti quanti facciano quell'orario, questo non è possibile. L'ascoltatore aveva pienamente ragione, noi siamo in balia di un rischio enorme, perché sugli impianti ci sono i contanti. Landi, però le faccio sentire un messaggio, ce lo legge adesso Nicoletta, che si è accorta, di Alberto, che sì, che sottolinea che almeno a lui non pare che l'antitrust voglia obbligare, ma solo lasciare la facoltà ai gestori. Diciamo che è arrivata una sorta di moral suasion molto molto dirompente. Ti è piaciuta molto questa, la moral suasion, insomma una sorta di persuasione da parte dell'antitrust, che ha detto: ma insomma c'è una norma che non è stata applicata esattamente come avrebbe dovuto essere, Landi, quindi la facoltà già esiste sul territorio, già molte aperture. Su che cosa vuole ulteriormente allora spingere l'antitrust? Ma l'antitrust, l'obiettivo dell'antitrust è quella di avere, come dire, in questo settore, ma non solo in questo settore, una piena libertà nel commercio. È come dire che il negozio di calzature debba rimanere aperto anche quello, come altre tipologie commerciali, dove decade tutta quella normativa che in qualche modo... Io non ho capito, può? Allora io, guardi, le posso portare alcuni esempi. Può essere anche una cosa giusta, ma non capisco perché l'antitrust abbia sempre come primo, molta attenzione in questo settore e magari, certi altri settori che sono molto più vitali. Io parlo, per esempio, mi vengono in mente le farmacie, mi viene in mente gli enti pubblici, mi viene in mente le banche. Cioè, oggi la banca è come il distributore, offre un servizio, quel servizio è di erogare... Se la sentono, Landi, guardi Landi, che pure le banche vengono colpite ricorrentemente. Mi rendo conto che agli occhi dell'opinione pubblica magari non è così, ma ne abbiamo anche parlato, sono comunque dei colossi che riescono a gestire queste problematiche molto velocemente, magari l'effetto mediatico è anche meno forte. Detto questo, però, ecco, sulle aperture in realtà molti ascoltatori stanno un po' dalla parte dell'antitrust, soprattutto per quello che riguarda un determinato tipo di alimentazione, perché Marco dalla provincia di Modena, rapidissimo, grazie, il metano non ci dà tanto una mano, come diceva un vecchio spot. Marco, sì, buongiorno. Veloce, buongiorno. Grazie, che stiamo chiudendo, grazie mille. Sì, io lavoro anche di notte, quindi mi sarebbe comodo trovare un impianto, e ce ne sono quattro a Modena. E nessuno dei quattro tiene aperto dopo le 8, quindi basterebbe arrivare almeno mezzanotte, non dico e poi tutte le 24. Sì, esatto, magari troverebbe il self service se non fosse che la sua auto va a metano, se non ho capito Marco male. Ok, grazie. Daniele da Genova, rapidissimo, risposta al quizzettone, perché vuole andare a vedere a Genova Giovanni Allevi. Quanto costa la tassazione complessiva, quanto pesa la tassazione complessiva sul prezzo finale del carburante? Io sapevo più del 60%. E lei sapeva bene, Daniele. Quindi la mandiamo a seguire il tour di Giovanni Allevi, che appunto fa tappa a Genova. Loving you. Grazie Daniele. Martino Landi, la reinviteremo naturalmente, anche voi siete a Roma stamattina per dare battaglia su questi argomenti, c'è un incontro con la stampa proprio in queste ore, ci ritorneremo, perché comunque tutti viaggiamo, tutti facciamo il pieno e tutti interessa questo tema. E noi torniamo domani? Come sempre, qui alle 11. Grazie, buona giornata. Cuore e denari.